cambiare con parole oppure fantasia le cose della vita. Vuoi le pagine di storia o righe di poesia, quello che interessa a noi. Forse durante una notte capire un sogno se c'era, sapere se tutte le volte era falsa la trama o sincera. Il risveglio all'improvviso, senti un suono di una voce, all'istante tu vedrai una luce ed un avviso in un tempo assai veloce, nel silenzio capirei. C'è chi ha tutto nella gioia, altri niente nel dolore, non puoi scordarlo. Raccontano giustizia gridata con fervore, ma nel vuoto resterai. Sono sempre gli stessi ogni volta raccontare la storia, come regalano sempre la svolta, poi tutto rimane com'è. Il tuo sogno resta il riso, mentre il senso della croce ed il vuoto sentirai. Puoi capire all'improvviso l'ingiustizia ha una sua voce, e cambiarla tu vorrai. Tempo per capire, manca il tempo per sognare, non puoi fermarti mai. Forse il senso della vita è il momento di studiare, il futuro cambierai. Se lotti devi ogni volta capirne sempre il perché, nel dare un senso alla svolta, accendi la luce che è in te. Un bagliore all'improvviso nel gridare la tua voce, e non stancarti mai. Un domani col sorriso a chi ha portato la sua croce, nella luce tu vedrai.